I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Deborah Rosciani. La prima settimana finanziaria del 2017 è stata decisamente vivace e positiva per i mercati finanziari internazionali e ha fatto dimenticare quella che invece era stata l'apertura del 2016, quando la crisi cinese aveva provocato un'ondata di ribassi pesantissimi. Piazza Affari è stata la migliore d'Europa, con un rialzo di circa 2,5 punti, mostrando così di voler recuperare parte del terreno perso lo scorso anno, circa il 10%. A sostenere l'ultima seduta venerdì scorso è stato il rapporto sull'occupazione americana di dicembre. Sono stati creati 156.000 nuovi posti di lavoro, il tasso di disoccupazione è però risalito al 4,7%, ma la sorpresa positiva è arrivata dai salari orari. Su base annuale sono cresciuti del 2,9%, al massimo da giugno 2009. I temi italiani di mercato: Fiat Chrysler intanto la settimana scorsa ha guadagnato circa 8 punti percentuali grazie ai dati sulle immatricolazioni di dicembre, ma grazie anche a una serie di giudizi positivi che sono stati espressi da diverse case di investimento. Il gruppo ha presentato a Las Vegas un prototipo di auto elettrica. Altre novità verranno annunciate in questi giorni al Salone dell'Auto di Detroit. In realtà il mercato ha guardato a tutte le case automobilistiche, in particolare dopo le dichiarazioni del presidente americano Trump, che sta chiedendo con insistenza di ridimensionare la presenza di stabilimenti in Messico e tornare a produrre negli Stati Uniti. Il richiamo è toccato in particolare alla Ford e anche alla giapponese Toyota. Per gli altri temi di Piazza Affari hanno spiccato il volo le azioni del Banco BPM, la banca nata dalla fusione tra il Banco Popolare e la Popolare di Milano. Continuano ad essere sospese le azioni di Banca Monte dei Paschi in attesa dei provvedimenti operativi della legge salva risparmio approvata a fine dicembre, che prevede la ricapitalizzazione precauzionale da parte dello Stato della banca senese. Occhi puntati su Mediaset in attesa di novità sulla scalata ostile dei francesi di Vivendi e in attesa della presentazione del piano industriale a Londra il 18 gennaio. E infine è in programma per giovedì 12 l'assemblea dei soci di Unicredit per dare il via all'aumento di capitale da 13 miliardi che dovrebbe partire a metà febbraio. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Come succede da tempo, anche gli ultimi dati sull'andamento dell'occupazione, li ha diffusi oggi l'Istat e sono relativi al mese di novembre, restituiscono una fotografia del mercato del lavoro non facile da decifrare. Il dato positivo è che novembre ha visto il tasso di occupazione in miglioramento rispetto a ottobre. Si tratta, dice l'Istat, di un aumento mensile di circa 19.000 posti di lavoro, un numero non proprio enorme, ma va detto che nei 12 mesi, quindi tra novembre 2016 e novembre 2015, i posti aggiuntivi sono stati oltre 200.000. Ancora una volta i nuovi lavori riguardano in prevalenza le donne e gli ultra cinquantenni, il che spiega in parte il brutto dato che riguarda invece i giovani. Qui diminuiscono gli occupati e aumenta la disoccupazione. Parliamo della fascia di età tra i 15 e i 24 anni. La disoccupazione risale al 39,4%, che è il livello più alto degli ultimi 12 mesi. Va letto in chiaroscuro invece il dato complessivo sul tasso di disoccupazione. Si torna all'11,9%, anche in questo caso livello più elevato da un anno a questa parte. È un dato in chiaroscuro, si diceva, perché convive sia con la crescita del numero degli occupati, ma a suo modo segnala anche una maggior fiducia nel poter trovare un'occupazione, visto che nel periodo sono in diminuzione le persone inattive, cioè quelle che non lavorano e che sono anche così sfiduciate da non cercare neppure un'occupazione. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.